Sono prodotti venduti dai ragazzi, dagli adulti al professionista. Diciamo, rispetto al telefonino tradizionale, cercano di capire il rapporto guarda-prezzo se conviene prendere per quello l'uso che ne debbono fare lo smartphone o il tablet che va più per i professionisti o qualcuno che già sta entrando nella libera professione, tipo chi finisce l'università o meno. Gli smartphone sono più diffusi rispetto ai tablet oggi. Sicuramente sono i più diffusi, anche se i tablet, visto l'andamento di mercato e l'adeguamento dei prezzi rispetto all'inizio che sono usciti, pian piano sta acquistando sempre più quota di mercato. Il tipo di applicazioni che si possono utilizzare influenza l'acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro? Sicuramente, perché oggi il consumatore medio di per sé già ha visto, diciamo, quello che lui può interessare o meno. Diciamo che i professionisti già sanno che cosa vogliono, quindi sanno già per certo quali tablet o smartphone hanno delle applicazioni chiuse che possono far sì al loro lavoro o al loro divertimento, perché voglio dire, ci cerca di equiparare il divertimento anche al lavoro, quel tempo libero di scaricare qualche gioco, come facciamo ognuno di noi, credo. Per utilizzare queste applicazioni è molto comodo anche servirsi di piani di dati, di traffico di dati. I consumatori vi fanno qualche richiesta da questo punto di vista? Iniziano proprio da questo, chiedono proprio che cosa oggi offre il mercato per far sì che pagano meno rispetto ad altri operatori, dal professionista all'adulto, se lo possiamo definire così, che sta adesso entrando nel mondo, in questo mondo nuovo tecnologico, vogliamo dire, avanzato.